Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Eccoci qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, avete sentito questi suoni estremamente inquietanti, drammatici, terribili, che sono gli spari, le sventagliate di spari oggi nel doppio blitz che c'è stato in Francia. Sono stati uccisi tre terroristi che erano ricercati, due dei quali erano stati coloro che avevano compiuto la strage nel settimanale satirico francese Charlie Hebdo, e poi l'altro era invece colpevole di aver ucciso una vigile, una giovane vigile ieri a Parigi. Oggi si era serragliato, pare, con la compagna, poi è stato smentito che fosse lì con lui, comunque lei era in fuga, insomma lui avrebbe ucciso, tra l'altro oggi è serragliato in un supermercato di prodotti ebraici, quattro ostaggi, e due sono stati invece liberati. Insomma, una giornata estremamente convulsa per Parigi, che in realtà era sotto assedio da due giorni. Hollande ha detto la minaccia però non è finita, c'è stata in parte la soluzione di questa tragedia, anche se poi sono morti per l'appunto degli ostaggi. Ovviamente quindi questa è la giornata dominata da questa notizia, una settimana incredibile è stata questa. Di questo in particolare, anzi quasi totalmente, parleremo in questa puntata. Se troviamo il tempo, magari poi, a proposito di tempo, di meteo proprio in senso stretto, cercheremo anche di capire che fine settimana sarà, tanto per alleggerire alla fine. Però è chiaro che tutto quello che è successo ovviamente merita il primissimo piano, sia per quanto riguarda la cronaca, sia per quanto riguarda un'analisi, una riflessione di quanto accaduto, che potete fare anche voi come sempre interagendo in diretta o attraverso il numero per i messaggi, che è il 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Noto. Ho visto già diversi vostri commenti, no? Dopo tutto quello che è successo, qual è la percezione vostra dell'Islam? C'è un sondaggio che riguarda i francesi, che fino a poco prima che succedesse tutto questo erano tra i più favorevoli in Europa all'integrazione, al contatto, allo scambio culturale con l'Islam. Vediamo poi che cosa succederà invece nei prossimi giorni. Comunque, intanto partiamo con il racconto della giornata. La Francia sotto attacco, doppio blitz delle forze francesi, uccisi i fratelli e il terzo uomo, quattro vittime tra gli ostaggi, una complice sarebbe ancora in fuga. Vertice all'Eliseo, i servizi algerini avevano avvisato Parigi di un attacco imminente, telefonata tra Renzi e Hollande, e domenica i leader europei saranno nella capitale francese. Borse tornano in negativo, Piazza Affari perde il 3,27%. La studentessa stuprata all'Aquila, confermata la condanna dell'ex militare che la ridusse in fin di vita, in Cassazione ha avuto 7 anni e 8 mesi. Cuba, nuove voci smentite sulla morte di Fidel Castro. Partiamo quindi naturalmente da doppio blitz in Francia, che ha dominato, dicevo, tutta la giornata. Doppio blitz dopo 8 ore di assedio, uno a Dammartin, dove in una tipografia erano asserragliati i fratelli Cauchy che hanno compiuto la strage a Charlie Hebdo, e uno a Porte de Vincennes all'estremità orientale di Parigi, dove un altro jihadista, Mehdi Koulibaly, anche lui ucciso, aveva preso 6 ostaggi, tra cui un neonato, in un negozio di alimentari kosher, cioè dei prodotti adatti al consumo di chi è di religione ebraica. Ne ha uccisi 4 purtroppo, ed è lì che poi è partito il blitz del teste di cuoio. C'è un giallo sulla sua possibile complice, sua possibile compagna. Prima si diceva che era con lui, poi di lì sarebbe fuggita, invece sarebbe in fuga, ma non perché era con lui lì nel negozio. E Hollande, presidente francese, ha detto: le minacce però per la Francia non sono finite, vi lancio un appello, ha detto alla TV, ai francesi, alla vigilanza, all'unità e alla mobilitazione. A proposito di mobilitazione, domenica a Parigi sarà una grande marcia di solidarietà a cui hanno aderito i principali leader europei, tra cui la cancelliera tedesca Merkel, il primo ministro britannico Cameron, quello spagnolo Rajoy e anche il presidente del Consiglio italiano Renzi. E almeno uno dei killer era noto anche alle forze di sicurezza italiane, così ha detto questa mattina il ministro dell'Interno Alfano. Sherif Kouassi, uno dei due killer di Charlie Hebdo, era noto alle nostre forze dell'ordine, anche se non era mai stato sul territorio italiano. Fraccaro a rivelarlo è il ministro dell'interno Alfano, che dopo i fatti di Parigi oggi ha riferito alla Camera sulle misure messe in atto nel nostro paese per fronteggiare il terrorismo islamico. Il titolare del Viminale ha fatto sapere che fra i 53 foreign fighters censiti in Italia, quelli di nazionalità italiana sono 4, fra i quali anche il genovese Del Nevo, morto in combattimento in Siria. La quasi totalità di queste persone è ancora attiva nei territori di guerra, mentre la restante parte, decisamente minoritaria, è deceduta in combattimento o è detenuta in altri paesi. Nonostante le misure antiterrorismo annunciate da Alfano, le opposizioni non risparmiano critiche al governo per le sue politiche su sicurezza e immigrazione. L'attacco più duro è quello del leghista Grimoldi. Questo governo è collaborazionista dei terroristi, perché quello che voi state facendo nei fatti per ora la causa dei terroristi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma di questo, vi dicevo, parleremo per quasi tutta la puntata. Cambiamo adesso un po' fronte di notizie, parliamo di mercati finanziari. La settimana si è conclusa non positivamente, anzi con un nuovo venerdì nero per le borse europee, che hanno bruciato quasi 115 miliardi di euro. Gli indici europei hanno bruscamente virato a ribasso nel pomeriggio, sulla scia le forti vendite che si stanno abbattendo su Wall Street, nonostante i robusti dati sull'occupazione. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti infatti è sceso in dicembre al 5,6% sui livelli più bassi dal giugno del 2008. Piazza Affari appesantita dal tonfo dei titoli bancari, ha accusato una delle perdite peggiori col FTSE MIB, che ha lasciato sul terreno il 3,27%. Ha pesato anche il crollo delle banche dopo le indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, secondo cui la Banca Centrale Europea avrebbe richiesto un innalzamento delle soglie patrimoniali minime. E restiamo quindi in Italia. Oggi sono arrivati anche i dati sui redditi delle famiglie italiane. Crescono i redditi, cresce il potere d'acquisto, ma non crescono i consumi. L'effetto degli 80 euro in busta paga comincia a farsi sentire, ma parzialmente, timidamente. Secondo l'Istat, infatti, i redditi delle famiglie sono cresciuti nel terzo trimestre 2014 dell'1,8%, ma l'aumento non è bastato a far ripartire i consumi, che sono rimasti al palo. La spesa è infatti risultata invariata rispetto al trimestre precedente, in lieve aumento, più 0,4% su base annua. Cresce invece il risparmio, che torna ai livelli del 2009, segno che gli italiani preferiscono mettere i soldi da parte in attesa di tempi migliori. Nel frattempo, tra l'altro, la pressione fiscale è aumentata, arrivando al 40,9%, 0,7 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2013. E sul fronte dei conti pubblici arrivano dati poco rassicuranti, con il rapporto deficit-PIL salito oltre il limite massimo ammesso dall'Europa nel terzo trimestre, ha toccato il 3,5%. 0,2 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2013. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. La politica, con alla Camera oggi un'aula semideserta, le parole questa mattina di Alfano. Sempre infuocato invece resta il dibattito per la corsa al Quirinale. Occhi puntati su martedì prossimo, 13 gennaio, termine ufficiale del semestre europeo a guida italiana, uno spartiacque al quale più di una volta ha fatto riferimento recentemente Giorgio Napolitano come punto di arrivo per il suo mandato. Pochi giorni ancora dunque e partirà ufficialmente la corsa per il Quirinale, anche se le forze politiche guardano a questo appuntamento da diverse settimane. Quanto al toto nomine, al netto di un eventuale accordo tra Berlusconi e Renzi nel patto del Nazareno, resta in primo piano la figura di Romano Prodi, rilanciata dall'ex segretario del PD Bersani. Al professore potrebbe riunirsi una coalizione molto ampia, un'area di dissenso all'attuale esecutivo che va dalla minoranza Dem alla sinistra di Sinistra, Ecologia e Libertà, fino a pezzi di Nuovo Centrodestra, UDC e Scelta Civica, arrivando potenzialmente ad includere anche diversi elementi del Movimento 5 Stelle e i fittiani di Forza Italia. Da Via del Nazareno, dalle persone vicine però a Matteo Renzi si mostra tranquillità, confidando in un'elezione del nuovo Presidente della Repubblica che potrebbe arrivare già al quarto scrutinio. L'intesa con il Cavaliere ci sarebbe, la riprova sarebbe la disponibilità di Renzi nel concedere a Berlusconi la clausola di salvaguardia sulla nuova legge elettorale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso ancora all'estero, col nuovo giallo durato tutta la giornata sulla sorte di Fidel Castro. Non è la prima volta che girano voci sulla morte di Fidel Castro, ma quando si è diffusa la notizia di una conferenza stampa convocata a L'Avana per la stampa nazionale e straniera, in tanti hanno pensato che l'annuncio fosse imminente. Dopo qualche ora, un portavoce ufficiale del centro stampa internazionale della capitale ha smentito l'incontro con i giornalisti e dunque tutto è rientrato. Ma si continua a interrogarsi su Fidel, sul perché non compaia in pubblico da un anno. Non si è fatto vedere in occasione dell'annuncio della normalizzazione dei rapporti con Washington, non si è fatto vedere neanche per accogliere i 5 agenti dell'intelligence cubana celebrati dalla propaganda ufficiale come gli eroi di Miami. L'ultima volta che il leader massimo della rivoluzione è stato visto fuori dalla sua residenza è stata esattamente un anno fa, l'8 gennaio 2014, quando ha visitato un'esposizione di un artista. Chi lo ha incontrato nel corso dell'anno, come il presidente uruguaiano Mujica, lo ha descritto come deteriorato dall'età e dalla malattia. Anche le riflessioni che Castro pubblica sulla stampa ufficiale cubana si sono fatte più rare negli ultimi mesi. L'ultima è del 17 ottobre scorso ed era dedicata all'invio di specialisti cubani in Africa per affrontare l'epidemia di Ebola. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca italiana con la vicenda della studentessa stuprata. La Suprema Corte e la Cassazione conferma la colpevolezza per i reati di stupro e lesioni per Francesco Tuccia, ex militare che nel 2011 violentò e ridusse in fin di vita una ragazza fuori dalla discoteca all'Aquila. La pena è stata ridotta di 4 mesi, il procuratore generale è soddisfatto, così ha detto, il verdetto attenuto, il ritocco è solo della pena, è un aggiustamento tecnico, ha detto. In chiusura parliamo di calcio con Carlo Genta. Il venerdì del villaggio non propone, dopo il botto di Shaqiri all'Inter di ieri, grandi notizie di mercato, se non un gradito ritorno, cioè Alino Diamanti che va alla Fiorentina, torna in Italia, dunque dalla Cina, dal Guangzhou. Poi per il resto sono chiacchiere, trattative, diventa più difficile il passaggio di Sneijder alla Juventus perché c'è un irrigidimento del Galatasaray e del procuratore dell'olandese stesso. Il Milan, nonostante la smentita di Inzaghi, tratta per il prestito di Destro. Intanto aspettiamo un weekend che sarà estremamente interessante sul campo, un weekend che verrà aperto domani alle 18 da Sassuolo Udinese. Domani sera c'è il Milan malato dopo la sconfitta interna con il Sassuolo stesso sul campo del Torino e potrebbe giocare Cerci contro la sua ex squadra dal primo minuto. Ma domenica il clou 12:30 Inter Genoa, ma soprattutto alle 15 il derby della capitale Roma-Lazio con Napoli e Juventus alla finestra, o meglio sulla scaletta degli spogliatoi, perché alle 20:45 ci sarà il big match del San Paolo. Bene, con questo vi ho raccontato in sintesi la giornata di oggi. Vedo già molti vostri messaggi sulla vostra sensazione, la vostra percezione della religione islamica. Vedo anche molti messaggi positivi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Un altro ascoltatore invece al 349-238-6666, che è il numero per gli sms, quello che potete mandare in diretta, dice: laicismo, due punti, proibire il velo come in Francia. Infatti la Francia da questo punto di vista è estremamente laica, ma anche come vi dicevo piuttosto propensa all'incontro tra culture, almeno sondaggi che davano questo risultato fino a pochi giorni fa. E poi qualcuno invece si rifà al fatto che Alfano, oggi ministro dell'interno in Italia, ha parlato ad un'aula quasi del tutto vuota, ebbene sì, la Camera, e dice: in fine settimana deputati tutti a casa, vergogna. Effettivamente diciamo non si sono distinti per essere grandi lavoratori in questa situazione. E adesso ci colleghiamo direttamente con Parigi, dove c'è il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio. E ciao Roberta. Sergio, che ha vissuto la città in queste ore drammatiche, tesissime, e in una Parigi sotto assedio, una situazione naturalmente potete immaginare quanto tesa e blindata da 2 giorni dopo la strage di mercoledì, che al settimanale satirico Charlie Hebdo. Oggi c'è stato, vi dicevo, questo drammatico doppio blitz delle teste di cuoio, sono stati ingaggiati, pensate, migliaia di uomini in Francia, doppio blitz dopo 8 ore di assedio, perché uno è a Dammartin, è avvenuto dove in una tipografia si erano asserragliati i 2 fratelli Kouachi che hanno compiuto la strage a Charlie Hebdo, 2 fratelli franco-algerini, e uno a Port de Vincennes, all'estremità orientale di Parigi, dove un altro jihadista, Amedi Koulibaly, anche lui è stato ucciso, aveva preso 6 ostaggi, tra cui un neonato, in un negozio di alimentari kosher, cioè per chi è di religione ebraica, ne ha uccisi 4, e aveva ucciso ieri con quella che sarebbe la sua compagna una vigile. C'è un giallo sul fatto che lei sia in fuga, che fosse la sua complice. Però intanto Sergio, tu hai vissuto la città oggi, che cosa hai visto, che cosa hai sentito? Diciamo che la giornata di oggi è stata veramente particolare, eccezionale, drammatica. Stamattina l'accavallarsi continuo di notizie, avevamo lasciato le ricerche stanotte della polizia a Longpont, una quarantina di chilometri da Parigi, e alle 9, e poco dopo le 9 del mattino abbiamo ritrovato i due fratelli Guaxi a 5 chilometri dall'aeroporto Charles de Gaulle, asserragliati e sotto ostaggio, mentre cercavamo di capire come la situazione si sarebbe evoluta. All'una, poco dopo l'una, è arrivata notizia di questo altro, di quest'altra presa d'ostaggio, stavolta in centro a Parigi, all'interno della cerchia. Quindi è stata una giornata veramente drammatica. Io poi nel pomeriggio, dopo la cronaca mattutina, mi sono spostato a Port-de-Vincent, dove devo dire il perimetro di sicurezza della polizia è stato estremamente largo. Eravamo veramente a almeno 600-700, forse anche più metri dal negozio, noi giornalisti, da questo ipermercato kosher dove c'era stata questa presa d'ostaggi. E solo dopo, verso le 5, dopo che era partito il primo attacco, abbiamo chiaramente udito 4-5 detonazioni e abbiamo capito che stava succedendo qualcosa. La città fino a quell'ora era una città fondamentalmente in stato d'assedio, poco traffico, poca gente per le strade, poca gente nei negozi, perché c'era la paura anche di assalti armati nei negozi, falsi allarmi che si susseguivano. Quindi chiaramente la giornata di oggi è stata, se vogliamo, sotto certi punti di vista quasi più drammatica di quella di due giorni fa, perché oggi si è avuta la percezione che dovunque in città non ci fosse sicurezza, che dovunque potesse succedere qualcosa. Quindi il senso di sollievo è stato molto forte dopo le 5, però va anche detto, io penso dopo questa giornata di cronaca così rapida, così incalzante, l'ho appena detto anche il Premier Manuel Valls in diretta a BFM, bisogna ricordare che sono morte 17 persone innocenti in tre giorni, 17 francesi, 12 a Charlie Hebdo, la vigilanza ieri, altre 4 persone uccise oggi nell'ipermercato kosher. Contemporaneamente sono stati colpiti vari simboli, è stato colpito un giornale come Charlie Hebdo, simbolo della libertà di stampa, della laicità, è stato colpito un simbolo anche dell'ebraismo, è stato colpito in sé l'ebraismo, no? Non è stato scelto a caso questo ipermercato. Quindi dobbiamo cominciare a interrogarci su quello che è successo, sulle perdite che abbiamo avuto come Europa, se vogliamo, non solo come Francia ma come Europa. Questo purtroppo è il drammatico lascito di questi tre giorni. E queste domande ce le faremo anche soprattutto dopo, però Sergio, domenica che cosa succederà? C'è questa grande marcia, no, in programma? Allora sì, è una marcia che da francese è diventata nei fatti europea, perché era stata annunciata ieri, doveva essere inizialmente sabato, poi ieri sera è stata spostata domenica. Ieri sera c'era ancora qualche polemica, perché si mancava il Front National di Marine Le Pen, sembrava escluso, François Hollande non si sapeva se avrebbe partecipato o meno. Poi devo dire che quello che è successo oggi ha accelerato improvvisamente tutto. I principali leader europei, la Merkel, Cameron, Rajoy e il nostro Matteo Renzi saranno presenti, ci sarà anche il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, oltre anche a François Hollande, che manifesterà anche lui e sarà pensato il secondo presidente della storia, l'unico era stato Mitterrand, a scendere in piazza in una manifestazione pubblica, una marcia repubblicana contro il terrorismo e per la democrazia. Quindi si annuncia una imponente manifestazione a questo punto di livello continentale per dire no al terrorismo e per difendere i nostri valori che sono stati messi effettivamente sotto attacco in questo 11 settembre francese. Grazie Sergio Nava da Parigi, ciao Sergio. Ciao. E adesso vorrei coinvolgere invece Gianandrea Gagliani, ciao Gianandrea. Ciao, buonasera a te e anche agli ascoltatori. Direttore della rivista Analisi Difesa, collaboratore del Sole 24 Ore e di altri giornali, ha scritto fra l'altro Iraq, Afghanistan, guerre di pace italiane. Ma quello che vorrei chiederti è, dopo faremo un'analisi anche con altri ospiti sul mondo musulmano, sulle due culture che hanno difficoltà forse a integrarsi e incontrarsi, però da un punto di vista invece oggi dell'operazione delle teste di cuoio, dei risultati ottenuti, no? Perché sì, c'è stato anche in parte un fallimento, nel senso sono stati bloccati e uccisi i tre killer, però sono morti anche degli ostaggi. Fra l'altro l'obiettivo era quello di prenderli vivi, questi killer, anche per capire se sono delle cellule impazzite, dei matti esaltati, oppure se fanno parte, sono affiliati a qualche organizzazione integralista islamica. Tu come la giudichi? Per esempio c'è qualcuno che dice, vediamo se lo ritrovo, che parlava ecco qua, del fatto che dice: tre uomini inseguiti da 88.000 uomini, un paese sotto scacco è il miglior esempio di capitalizzazione degli investimenti. Molto ironico naturalmente l'ascoltatore. Sì, beh, diciamo che la Francia ha voluto dare un segnale di reazione molto forte con una campagna mediatica, secondo me anche sbagliata, quella di presentare un esercito di 90.000 persone, militari, poliziotti che danno la caccia a tre persone. Insomma, 90.000 uomini sono più dei militari che la NATO ha messo in Kosovo nel 99. Insomma, ci sono delle esagerazioni. Io credo che però il problema, dobbiamo comunque valutarlo in base alle poche informazioni che abbiamo in questo momento su come si è svolta la dinamica dei due raid che hanno permesso di uccidere i tre terroristi. Ma gli elementi che ci sono lasciano molto perplessi. Il primo raid, quello contro i due fratelli, la prima incursione, si svolge, mi pare, nella maniera più tradizionale. Appurato che non c'erano realmente ostaggi nelle loro mani, li hanno snidati con flashbang, che sono bombe accecanti, assordanti, e dei lacrimogeni, costringendoli a uscire dal capannone, dalla tipografia. E questi potevano uscire arrendendosi, sono usciti sparando alle impazzate, sono stati abbattuti. E ora qui, tu dicevi giustamente, l'ordine era di prenderli vivi, si poteva prenderli vivi, c'erano i migliori tiratori scelti francesi appostati dalle forze speciali del RAID, del RED, di polizia, della Police Nationale, ma anche delle GIGN, che sono le forze speciali della gendarmeria. Beh, bastava. Quindi dici, potevano sparargli alle gambe, per esempio? Alle gambe, alle braccia, ferirli anche con ferite multiple, ma nessuno è letale. Questi tiratori scelti sono addestrati proprio a fare questo, e sarebbe stata una cosa positiva, anche perché vedi, in questa vicenda ci sono tanti punti oscuri, tante zone grigie. Questi uomini che arrivano cercando l'indirizzo giusto davanti alla redazione di Charlie Hebdo fanno quello che vogliono per 10 minuti, sparando con dei Kalashnikov, il cui colpo ha un impatto, anche una detonazione che si sente a grande distanza, e per 10 minuti non arriva nessuno, se non un poveraccio di un poliziotto in mountain bike che poi viene ferito e poi riescono a scappare. Addirittura ieri vengono segnalati da un benzinaio che, mentre gli fa benzina, nota nel sedile posteriore dei fucili, dei lanciarazzi. Adesso un terrorista che lascia nel sedile in bella vista armi del genere, dopo aver lasciato, non dimentichiamolo, i loro documenti in un'altra macchina usata per la fuga. Insomma, ci sono tante zone grigie che la cattura di almeno uno di questi in vivo avrebbe potuto in qualche modo chiarire. Io sono un po' perplesso su questa vicenda. E tu come te lo spieghi, queste incongruenze, queste zone grigie, come dici tu? Me le spiego, nel senso che non ho elementi per poter dare delle spiegazioni. Mi limito a dire, l'ho fatto anche nell'editoriale di oggi sulla Danese Difesa, che insomma ci sono troppe zone grigie, e che questo finale di tutta questa vicenda con i tre morti, e tra l'altro ricordiamolo perché Hamdi Coulibaly era un loro amico, era un loro complice, si erano conosciuti con i fratelli nella stessa cellula qaedista, che tra l'altro, insomma, parliamo di personaggi che erano tutti ben noti sia alle patrie galere francesi, sia noti ai servizi di sicurezza antiterrorismo per il loro passato, per aver reclutato volontari come andare a combattere con Al Qaeda in Iraq. Insomma, infatti, altre enorme congruenze, cosa ci facevano a piede libero e così poco controllati, evidentemente. Purtroppo, no? Vedi, ecco, a piede libero, quello purtroppo capita in tanti, io dico purtroppo perché tante volte la polizia, in questi casi, in questa vicenda, la polizia è stata spesso presa di mira l'efficienza delle forze di sicurezza francesi, e io non me la sento di colpevolizzare, perché in realtà, se noi pensiamo a un'operazione, a una protezione antiterrorismo di una città come Parigi, gli obiettivi sono tantissimi, i potenziali obiettivi di gruppi terroristi, diciamo, islamici, perché parliamo di terrorismo sempre in termini generici, è terrorismo islamico, lo era l'11 settembre del 2001, lo è rimasto oggi, e quindi gli obiettivi potenziali sono tanti. Se poi i personaggi chiave o personaggi importanti vengono catturati e poi restano in galera un anno e mezzo, come è il caso di Saïd Kouassi, poi è chiaro che poi lo devi tenere d'occhio sempre. Ma quanti sono i personaggi del genere rimanere da tenere d'occhio 24 ore su 24. Io non credo che possano bastare quei 90.000 uomini di cui parlava, mobilitati, di cui parlava il Ministero degli Interni francese per questa caccia all'uomo, per controllarli tutti costantemente. E allora c'è anche un problema di leggi. Noi abbiamo delle leggi che ci consentono di mettere, una volta scoperto un terrorista, metterlo fuori gioco, comunque non più in grado di nuocere per lungo tempo? Probabilmente no, perché se gente che reclutava volontari per andare a fare azioni terroristiche in Iraq e a uccidere occidentali e iracheni in Iraq poi rimane in galera un anno e mezzo, probabilmente anche per un poliziotto francese diventa dura, no, tenere sotto controllo la sicurezza in una città. Insomma, ci sono tanti elementi che questa vicenda riporta a galla e che meriterebbero qualche riflessione in più, forse. Quindi da una parte difficoltà oggettive, inefficienza, ma anche, dicevi, quelle incongruenze che speriamo si possano prima o poi chiarire, anche se è difficile una volta che sono morti i killer. Gianandrea Gaiani, intanto ti ringrazio molto del tuo prezioso intervento, ricordo direttore della rivista Analisi Difesa. Ciao Gianandrea. A voi, ciao, a presto. Ciao, grazie, buona serata. Europa 24 notte. E a proposito dello spazio europeo, dicevamo, ci siamo lasciati con quella domanda: che regole mancano in Europa, quali regole ci sono per riuscire a tenere sotto controllo i sospetti di terrorismo? Ce lo dice Gigi Donnelli. Ciao Gigi. Ciao Roberta, buonasera, ancora buonasera agli ascoltatori. Dunque sì, domenica giustamente dicevi è giorno di manifestazione, ma domenica è anche il giorno di un vertice straordinario UE sull'antiterrorismo. Ovviamente non è un caso, è un vertice europeo a cui sono invitati anche gli Stati Uniti. Eric Holder rappresenterà appunto il Ministero della Giustizia americana, e l'incontro a Parigi dunque di domenica ha lo scopo di coordinare una strategia comune dopo l'attentato appunto di questa settimana drammatica. Dunque al centro dei colloqui questioni centrali come appunto i foreign fighters di cui stai parlando da un po', questi cittadini occidentali uniti a ISIS o Al-Qaeda o comunque vicini da questi, avvicinati da questi gruppi terroristici. Allora un punto è: qual è lo stato dell'arte in Europa? Possiamo sentire un momento, chiedo in regia di mandare Gilles de Kerchove, che forse è un nome, è un signore belga, circa 60 anni, da 20 un funzionario dell'Unione Europea, un nome forse poco noto, ma intanto lo sentiamo perché lui è responsabile dell'antiterrorismo in Europa, quindi esiste un ufficio di coordinamento dell'antiterrorismo. In questa lunga intervista de Kerchove sostanzialmente racconta dei passi avanti che sono stati compiuti nel corso degli ultimi 3 anni sullo scambio delle informazioni in Europa, ma lamenta alcuni aspetti in particolare. Voi sapete, quando siamo in treno, non so, anche tu Roberta, ti capita, ti chiedono il PNR. PNR? Non te l'hai mai chiesto, tu non vai in treno. Ha PNR, col DNA? No, ha a che fare col numero del biglietto. Sì, mi dica, ecco, il PNR è una questione in realtà molto delicata, al centro di un dibattito, di una discussione e di un vero e proprio litigio tra Commissione Europea ed Europarlamento. Perché? De Kerchove e la Commissione Europea vorrebbero che ci fosse una rete unica dei PNR, cioè sostanzialmente lo scambio delle informazioni digitali, delle tracce digitali. Questo tema ha però suscitato un dibattito molto animato. Da circa 2 anni il Parlamento europeo si oppone a rendere gestibili da un'unica centrale operativa i nostri PNR. Allora perché lo fanno? Perché lo fanno? Perché evidentemente viviamo in democrazia e l'idea è di essere tracciati continuamente nei nostri spostamenti, certo, il tuo telefono, la privacy, che eccetera, dà fastidio un poco. Ora, i temi quindi all'ordine del giorno saranno, e visto che abbiamo un nuovo Europarlamento, anche decidere che scelte assumere rispetto al rapporto tra privacy e sicurezza. Il PNR permetterebbe, secondo i sostenitori, di tracciare proprio i foreign fighter, perché comunque dei biglietti li devono lasciare in circolazione, andare in Siria non è un viaggio banale, certo, e così via. L'altro grande tema è quello che riguarda il web. Questa generazione di terroristi europei, se ne calcolano circa 3.000 alle persone che sono europei che sono andati in Siria o in altre zone di combattimento a svolgere appunto queste attività di guerra, non vengono come dire agganciati in modalità particolari, ma semplicemente via Twitter e web. Cioè il nostro web è ricchissimo di propaganda jihadista ed estremista. Il punto è: bisogna chiudere sistematicamente tutte quelle fonti appunto che di fatto agganciano molti di questi giovani. Non dimentichiamo che il profilo classico, come nei nostri terroristi francesi, sono gente tra i 20 e i 32, 33 anni, non di più. E questo solleva un altro grande dibattito. De Kerckhoff chiede di integrare in quella che si chiama la Schengen Information System, cioè il sistema informativo di Schengen, appunto, anche una squadra di hackeraggio e contro hackeraggio per bloccare sistematicamente tutte queste sorgenti di propaganda jihadista. Ma lì di nuovo si solleva il grande interrogativo, cioè in che mondo vogliamo vivere? E questa è la domanda che sostanzialmente i politici dovranno, non domenica, ma magari nei prossimi tempi. La domanda è bene o male sempre questa. Grazie Gigi Nonelli che ci ha lasciato con questa domanda. Ciao Gigi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E di domande naturalmente ce ne sono sempre tante. Saluto Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Alberto, con te parlavamo ieri del fatto che l'integralismo islamico ce lo siamo anche coltivato noi paesi occidentali, no? Appoggiando movimenti vari nel tempo, a partire dall'Iran con gli americani, no? che sostenevano l'Iraq contro l'Iran e poi viceversa. Insomma, piano piano noi non abbiamo tenuto sotto controllo, abbiamo sostenuto anche dei paesi, degli Emirati, dei paesi arabi che sostenevano a loro volta l'integralismo. Insomma, ci hai spiegato che è anche colpa nostra, no? Dei paesi occidentali, se ce li troviamo in seno, diciamo, integralisti islamici. Sì, ma è anche una colpa recente, senza andare all'Afghanistan degli anni Ottanta, quando i mujahideen venivano sostenuti dagli Stati Uniti, finanziati dall'Arabia Saudita. Parliamo soltanto della Siria, cioè di una questione iniziata 3 anni fa nel 2011 con la rivolta di Bashar Assad, e qui noi abbiamo sostenuto i gruppi che lottavano contro Bashar Assad, dei ribelli, e tra questi gruppi dicevamo nelle conferenze internazionali che sostenevamo i gruppi laici o moderati, ma qui bisogna sollevare il velo dell'ipocrisia. Tutti sapevano, americani compresi, francesi compresi, che invece stavano sostenendo gruppi di dichiarata fede islamica e islamista, e tra questi anche quelli finanziati, appoggiati dalla Turchia, dal cui confine sono passati poi tutti questi foreign fighter, perché Sharif Qashi, il minore dei fratelli Qashi, è passato da lì per andare in Siria. Insomma, noi dobbiamo essere un po' meno ipocriti, anche perché poi i nostri alleati lo sono con noi, la Turchia è uno di questi, ma l'Arabia Saudita, vogliamo parlarne, che è uno dei maggiori finanziatori del fronte islamico, o lo stesso Qatar, finanziatore di Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra ha rapito 42 militari delle Nazioni Unite sul Golan a settembre. Il riscatto è stato pagato con 40 milioni di dollari dal Qatar. È una forma di finanziamento occulto di un movimento islamista che è pure in lista nera per il terrorismo. Con Alberto Negri bisognerebbe parlare ore, però Alberto ti chiedo, Hollande, presidente francese in TV, dopo la liberazione, l'uccisione dei tre killer, la liberazione della gran parte degli ostaggi, ha detto però le minacce alla Francia non sono finite, quindi in base alla tua analisi, a quello che è successo oggi, anche la tua analisi, evidentemente il problema si moltiplica, e questo è il rischio. Sì, il problema dei francesi in questo momento è enorme, del governo francese. Deve giustificare come mai tre terroristi su cui esistevano faldoni alti un metro nelle questure francesi fossero a piede libero. Questo è il punto, al di là delle sofisticazioni che sono necessarie per individuare e rintracciare il terrorismo, i siti web, il PNR di cui si parlava prima, Gigi ci ha spiegato anche molto bene quali sono i problemi che sottendono tutto questo, qui si parla di gente che era stata in carcere, che era stata condannata, che aveva dei precedenti e che soltanto 2 anni fa il signor Koulibaly ha tentato di tirar fuori dal carcere con un assalto Belkacem. Belkacem è un personaggio di cui mi sono occupato 20 anni fa come membro del GIE, autore di uno degli attentati peggiori che furono fatti in Francia in quegli anni. Insomma, i buchi della sicurezza anche su cose come dire, banali, perché qui parliamo di dossier che stavano sui tavoli degli inquirenti, insomma, queste sono tutte cose da spiegare. Io penso che dopo la dimostrazione che ci sarà Place de la République, in Francia ci sarà, cadranno molte teste, ecco. Grazie Alberto Negri. Ciao. Grazie Alberto. Grazie, buona serata. Saluto Magdi Allam. Ciao Magdi. Ciao Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Editorialista del Giornale. Ti leggo uno dei tanti messaggi che stanno arrivando sia attraverso il 349-238-6666 sia attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Fina scrive: esistono due tipi di Islam, quello rappresentato da musulmani pacifici che rispettano qualsiasi altra religione e sono la minoranza, dice, l'altro Islam, la maggioranza, è rappresentata da fondamentalisti capaci di qualsiasi forma di violenza. In genere tu hai sempre, ultimamente, cioè, negli ultimi anni, non hai mostrato grande fiducia nell'Islam moderato, o sbaglio? No, io dico che esistono i musulmani moderati, cioè le persone possono essere moderate. L'Islam è uno solo, perché il Corano è unico, Maometto è unico. Non c'è un Corano per i moderati e un Corano per i terroristi. E le persone possono essere moderate nel momento in cui fanno riferimento a quelle leggi, a quei valori e a quelle regole che sono, diciamo, il fulcro di uno Stato di diritto, dei diritti fondamentali della persona. Quindi i musulmani possono essere moderati nel momento in cui condividono quel contesto che ci appartiene a tutti quanti noi. Ma l'Islam, per quello che è scritto nel Corano, per quello che è stato Maometto, non è moderato. Questa è, diciamo, non è semplicemente, a mio avviso, un'opinione, è una realtà che si riscontra leggendo una serie, come dire, lunga di versetti coranici e passi decisivi della vita di Maometto, che evidenziano la sua connotazione primaria di combattente, di uno che ha ucciso, che ha sgozzato, che ha decapitato dei nemici. Questo Maometto, dici Magdi? Questo Maometto, come ad esempio nel 627 alle porte di Medina, quando partecipò di persona alla decapitazione di circa 800 ebrei della tribù dei Banu Quraysh, che dopo 25 giorni di assedio rifiutarono di convertirsi all'Islam, di sottomettersi all'Islam, e ci fu il giudizio di uccidere tutti i maschi, cosa che lui fece, e fu lui stesso a decapitarli. Quindi Magdi, da quello che tu dici, se il Corano è uno, si parla di Maometto, e in questo senso non c'è possibilità, allora, di, se si riferisce a questa religione e il libro sacro di questa religione, il Corano, secondo te quindi non ci può essere un Islam, allora, moderato? Per restare in tema, quello che è accaduto a Charlie Hebdo, la serata strage del 7 gennaio, 12 morti, e l'epilogo di oggi con altri 4 morti, si è potuto verificare perché in prima battuta sono stati i cosiddetti moderati a portare in tribunale Charlie Hebdo con l'accusa pesantissima di blasfemia. La blasfemia, in termini sharaitici, cioè secondo la sharia, la legge coranica, va sanzionata con la condanna a morte, cosa che effettivamente ad esempio avviene pubblicamente, ufficialmente in Pakistan, ma la blasfemia è reato in tutti i paesi musulmani e divergono però le sanzioni. Quello che accomuna tutti i musulmani, a prescindere dal fatto se siano moderati o estremisti o terroristi, è che la rappresentazione di Maometto e ancor di più il ridere Maometto è assolutamente vietato, e anche in questo caso la sanzione è la condanna a morte. Quindi quel processo contro Charlie Hebdo, promosso dalla Grande Moschea di Parigi, che è l'organo istituzionale dell'Islam in Francia, cioè è l'organo che si interfaccia direttamente con il governo, con le autorità della Francia, e l'UOIF, l'Unione delle Organizzazioni Islamiche in Francia, che è quello che rappresenta i fratelli musulmani in Francia, furono loro a intentare questa causa. Promossero un clima d'odio che nel 2011 sfociò in un primo attentato con bottiglie Molotov che devastarono la sede di Charlie Hebdo, e poi abbiamo avuto il 7 gennaio questa efferata strage nel nome di Allah è grande, vendicheremo il nostro profeta. Ecco, tieni presente questo, che anche i musulmani che hanno condannato la strage e hanno deplorato le vittime e il fatto che ci siano state delle vittime in questa strage, nessuno di loro però ha difeso la libertà d'espressione, nessuno di loro per esempio ha twittato "Je suis Charlie", perché non condividono e non potrebbero condividere il fatto che in Europa, seppure esiste da noi una libertà d'espressione che rappresenta in qualche modo il fulcro della nostra civiltà, che anche in Europa si possa rappresentare in modo sarcastico. Maometto. Grazie Magdi Allam. Ciao Magdi. Grazie a te Roberta. Ciao, buonasera a tutti. E vorrei adesso coinvolgere il professor Massimo Campanini. Buonasera professore. Buonasera. Che insegna storia dei paesi islamici e pensiero islamico all'Università degli Studi di Trento, autore di diversi volumi sull'Islam. Lei condivide questa interpretazione dell'Islam da parte di Magdi Allam? Ma guardi, devo dire che io con Magdi Allam ho avuto dei rapporti abbastanza conflittuali, quindi potrei essere tenuti separati in parte, diciamo. Però appunto voglio dire, sulla storia della libertà di pensiero mi piacerebbe sapere che se io scrivessi in Occidente che Gesù Cristo è un pervertito sessuale, se questo sarebbe considerato libertà di pensiero. Allora, riguardo a Muhammad, a Maometto, si può dire che è un pervertito sessuale perché questo è libertà di pensiero, però naturalmente riguardo un altro no. Su questo allora, professor Campanini ha ragione, però non ci sarebbe un eccidio, diciamo, sicuramente bisogna rispettare le religioni. Ma guardi, non ci sarebbe un eccidio, però i preti, i papi ne hanno accesi di roghi. Beh, nel passato senz'altro. Francesco Pucci, quindi voglio dire, non facciamo questi discorsi sulla, come fa Magdi Allam, sulla purezza delle fedi. Quindi le fedi hanno tutte, compreso il buddismo, un nocciolo di violenza, un nocciolo di intolleranza all'interno di sé. Quindi voglio dire, non mettiamo, io la penso francamente così, non mettiamo la questione della libertà di pensiero come una questione discriminante, perché io sono del parere che il diritto di satira e il diritto di critica deve avere dei limiti, nella misura in cui la mia libertà termina dove comincia la libertà di un altro. E su questo siamo d'accordo, professor Campanini, però non esistono libertà assolute per nessuno, per cui non esiste la libertà assoluta da una parte di poter insultare e la libertà assoluta da un'altra parte di non poter insultare. E questo mi sembra chiaro, professor Campanini. Questo mi sembra assolutamente chiaro. Però l'interpretazione del Corano, per esempio, corrisponde con, dice qualche ascoltatore, così come era d'accordo con Magdi Allam, nei paesi islamici l'apostasia, la blasfemia, il proselitismo cristiano, l'omosessualità allora, se sono... Allora, la questione dell'apostasia e della blasfemia, Magdi Allam parlava di legge coranica. Il Corano sulla questione della blasfemia non dice assolutamente niente, nel senso che dice che la blasfemia è, naturalmente questo da un punto di vista religioso mi sembra più che accettabile, è un peccato, però non dice assolutamente niente né riguardo alle sanzioni possibili relative al blasfemo, né riguardo al fatto che il blasfemo debba essere ucciso. Una cosa di questo genere è stata sviluppata poi su base sharaitica, ma da questo punto di vista bisogna rendersi conto effettivamente di cosa voglia dire sharia nelle questioni e nei tempi successivi all'elaborazione del Corano, ma sostenere che questa idea è un'idea coranica non è assolutamente vero. E io sfido chiunque a trovarmi un luogo del Corano dove si dica una cosa di questo genere. Professor Campanini, quindi l'integralismo islamico da dove viene fuori? Perché interpretano il Corano in un certo modo? Perché urlano Allah certo, grande? Allora, quando... l'idea fondamentale che costituisce, dal mio punto di vista, l'elemento maggiormente negativo di questa prospettiva è questa, cioè il fatto che nell'ottica dell'Islam il Corano è parola diretta e letterale di Dio, cioè il Corano sono gli, come si dice, ipsissima verba Dei. Quindi, trattandosi del fatto che il Corano è ipsissima verba Dei, è evidente che da un certo punto di vista l'uomo possa avere dei limiti nella interpretazione del Corano, per cui c'è da parte di molti, soprattutto delle tendenze salafite e delle tendenze estremiste, la tendenza, mi scusi il gioco ma è sera e sono molto stanco perché ho fatto una giornata di cose di questo genere, c'è la tendenza a interpretare, a leggere il Corano in maniera letterale. Però io le posso garantire, perché ci ho scritto ben due libri, sul fatto che esiste all'interno dell'Islam una ampia tendenza alla rilettura, alla contestualizzazione e alla problematizzazione del testo coranico, che certamente dovrebbe essere recepita e adattata da parte di coloro che assumono degli atteggiamenti estremisti, che purtroppo spesso non lo fanno, ecco. Ma il difetto fondamentale, il difetto, se si può chiamare così, è quello, cioè teologicamente è l'idea che il Corano è parola diretta e letterale di Dio. Professor Campanini, mentre per quanto riguarda le scritture ebraico-cristiane, la Bibbia o i Vangeli sono ispirati, sì, sono ispirati, ma non sono parola letterale. E questo, secondo me, è il problema fondamentale. E intanto, professor Massimo Campanini, ci fermiamo qui, visto che stanco e anche che l'argomento sarebbe davvero molto complesso. Per il momento, sì. Grazie, professore. Grazie a voi. Alleggeriamoci un po' col nostro colonnello Giuliaci. Colonnello, dacci del sole per illuminarci. Cioè, ha visto, mi sono impegnata. Buonasera, ciao Roberta. Ciao Brunello. Bene, tu gradisci il sole, domani mi impegnerò perché sarà un'altra splendida giornata di sole su tutta l'Italia, con una novità importante: ci sarà un brusco rialzo delle temperature che già sono aumentate in questi giorni, ma domani ci sarà un brusco balzo all'insù, tant'è che verranno superanti i 15 gradi sul 50% circa dei capoluoghi di provincia dell'Italia, con punti di 20 gradi su Piemonte, Sardegna, Sicilia e Campania. Ci sono voci che dicono che raggiungeremo 25, addirittura 30 gradi. Beh, diciamo, sono voci che a mio giudizio sono assolutamente destituite di ogni fondamento scientifico. Peccato. Quindi non crediamo a queste panzane, insomma, ecco. Sì, peccato, tu avresti gradito i 25. Guarda, credo che l'avresti mal sopportati. No, perché, colonnello, io d'estate voglio 45 gradi all'ombra, quindi ma adesso siamo. Va bene, poi arriviamo a domenica, Roberta. Domenica invece arriva a ridosso delle Alpi una perturbazione seguita da aria piuttosto fredda, piogge dal pomeriggio sulle regioni centrali e di nord-est e della, anche al sud, nevicate significative nella giornata di domenica fino a 600-800 metri sulle Alpi di confine e dulcis in fundo brusco calo delle temperature al centro-nord. In pratica in 48 ore vedremo un'altalena delle temperature, brusco calo all'insù e poi seguito domenica da un brusco calo all'ingiù, ma questo brusco calo all'ingiù riporterà le temperature sui valori medi previsti per questo periodo dell'anno. Ancora caldo invece domenica al sud, dove verranno superate ancora i 15 gradi sul 50%. Grazie colonnello, ci dobbiamo salutare. Il resto su www.meteogiuliacci.it. Un salutone a te e agli ascoltatori. Ciao, ciao colonnello, a dopo.